Il bosco era caldo e umido. Alcuni raggi di sole penetravano attraverso le fronde scure dei rami e, come lunghe dita dorate, accarezzavano le foglie cadute a terra e il manto erboso sulle piccole radure. Quelle valli lunghe e strette, con le grandi montagne a picco a fare da cortigiane alla vetta maestosa del Monte Rosa, sono un piccolo paradiso dove le creature dell'alta montagna valdostana vivono giornate incredibili, ogni giorno ricche di avventure, di scoperte, di rivelazioni. Così gli stambecchi corrono da un costone di roccia all'altro per stabilire nuovi record di salto in lungo, e così le marmotte a scavare arditi tunnel grazie alla loro laurea in ingegneria. E così il picchio ad inventare ritmi di musica dance e la lepre a varare tracciati zigzag per moto da cross. Tutto il bosco era in festa in quell'estate in montagna a Gressonei, in Val d'Aosta. Solo una creatura appariva triste e annoiata. Era un boleto edule, un piccolo fungo porcino. Ed erano giorni tristi per il funghetto, che si sentiva povero e sfortunato, ancorato com'era al suolo, impossibilitato a correre e a vivere incredibili esperienze come le altre creature. Perché non posso muovermi? Perché non posso correre e andare a scoprire cosa c'è al di là del grande albero di castagno che mi ostruisce la vista? Tutti i giorni il piccolo funghetto piangeva la sua solitudine e la sua sfortuna. Non si sa se davvero fossero lacrime o semplice rugiada che si raccoglieva in piccole gocce a cadere dal suo scuro cappello carnoso. Un giorno, mentre una marmotta saltava gioiosa intorno al nostro piccolo amico, il funghetto, il cui nome adesso lo diciamo era Mario, scoppiò in un'improvvisa crisi di rabbia. Possibile che soltanto io non possa muovermi? Perché sono costretto ogni giorno a vedere le stesse cose? Chi ha stabilito che io non possa spostarmi in giro per il bosco? Beh, ogni creatura ha il suo destino. Tuonò improvvisa una voce dall'alto. Anch'io non posso muovermi, ma accetto il mio destino e ne sono pure contenta, visto che grazie a me molte altre creature, tu compreso, possono vivere e gioire in questa meraviglia. Era la grande conifera ai piedi della quale, tanti giorni prima, era spuntato Mario. Tu almeno sei alta e puoi vedere il cielo. Io che cosa posso vedere da qua giù? Disse ancora lamentoso il funghetto Mario. Un milione di cose e i mille cambiamenti che accadono ogni giorno, rispose con un accenno di allegria la vecchia conifera. Ma il panorama davanti a me è sempre lo stesso. Non mi sembra ci sia molto da scoprire, insisté il funghetto. Guarda meglio, concluse con tono definitivo l'albero. Poi si rimise a sonnecchiare. Qualche giorno dopo, Mario stava ancora lamentandosi. Povero me, che noia. I miei giorni passano tutti uguali, uno in fila all'altro. Guarda meglio. D'improvviso la voce della grande conifera tornò a far vibrare il terreno. Se osservi con attenzione, vedrai le primule fiorire a primavera, i raggi di sole disegnare meravigliosi arabeschi, le allodole tracciare graziose geometrie tra i miei rami e, proprio accanto a te, sotto quel mucchietto di vecchie foglie, una sorpresa che già si prepara proprio per te. Così ogni giorno la vecchia conifera raccontava le meraviglie in continuo cambiamento e così Mario cominciò a capire quante cose fantastiche e quante incredibili scoperte si potevano fare anche restando fermi ai piedi del grande albero. Fu così che in un bellissimo giorno, proprio accanto a sé, Mario vide spuntare una magnifica funghetta, nata proprio vicino a lui sotto il piccolo mucchio di foglie raccolte dal vento. Fra i due nacque una bellissima storia d'amore che tutto il bosco accolse con grande affetto e con incredibile entusiasmo. Ogni giorno era un giorno nuovo e diverso e i due funghetti passavano le ore a stupirsi del melodioso sussurrare del vento o del poderoso salto della cavalletta o delle graziose evoluzioni degli scoiattoli. Ancora oggi Mario e Teresa, e così si chiama la compagna funghetta del nostro eroe, si vogliono bene, vivono serenamente le loro giornate. E a chi, passando, si lamenta della propria scarsa fortuna e delle cose tristi e povere che gli capitano ogni giorno, Mario risponde: guarda meglio,